Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Agosto 1969, Stati Uniti. I manifesti che pubblicizzano Woodstock come tre giorni di pace e musica sono in giro ormai da tempo. E adesso finalmente è arrivato il grande giorno del concerto nella piccola cittadina di Battle, New York. La maggior parte degli abitanti della zona è da subito contraria a ospitare l'evento, ma Elliot Tiber, invece, il proprietario del motel El Monaco, fiuta l'affare e offre agli organizzatori il terreno della sua tenuta, più quello di altri allevatori vicini che riesce a convincere. E la storia raccontata da Motel Woodstock di Ang Lee. Qui dice che una roba hippie verrà cancellata se non trovano un posto dove fare il concerto. Wow, Janis Joplin, Jimi Hendrix, gli Who. Rifiutati dai residenti. Che fregatura. Vorrei parlare con la Woodstock Concerti. Gli organizzatori, fissando il prezzo del biglietto, contano di riuscire a pagare i grandi musicisti chiamati a suonare. Ma davvero non immaginano la portata di quello che sta per succedere. La poca sorveglianza non consente di controllare tutta la zona e presto entrano tutti. La gente scende dalla collina e si riversa verso il palco, costruito sulla base di una conca naturale, in modo che si veda da qualsiasi parte. La strada che porta a Beatle, intanto, è piena fino a esplodere. Ci vogliono ore per fare pochi metri ed è bloccata l'intera Manhattan. Gli altoparlanti cercano di scoraggiare l'accesso per rispettare i limiti di capienza, ma tutto è inutile. Ormai i giovani sono centinaia di migliaia. Per tre giorni si canta e si balla sotto la pioggia battente, ci si lava nudi tutti insieme in un grande stagno e si sperimenta ogni tipo di droga. La prima giornata è dedicata ai musicisti folk. Richie Havens, emozionatissimo dopo 7 bis, esaurisce il repertorio e improvvisa quella Freedom passata alla storia, mentre John Baez canta con la sua grande pancia da sesto mese di gravidanza. Insieme a Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane, esordisce il giovane Carlos Santana, che sale sul palco da sconosciuto e scende da star. Jerry Rubin, attivista politico diventato celebre per avere coniato lo slogan «Non fidarti mai di chi ha più di 35 anni», sintetizza con lucidità lo spirito del concerto. Nei tre giorni di Woodstock abbiamo provato a costruire un'altra cultura. È nata la nostra comunità, con la nostra musica, la nostra stampa, i nostri valori, miti, leggende. Eravamo tutti dei sognatori e volevamo creare una pazzia che fosse autenticamente nostra. Sono anni di grandi e vorticosi cambiamenti dopo i quali il mondo non sarà più lo stesso. Gli operai, gli studenti e i gruppi etnici minoritari si aggregano spontaneamente in ogni parte del pianeta e con la loro carica contestativa fanno vacillare governi e sistemi politici. Mentre prima in Francia e poi in tutta Europa vengono occupate le università, in Cina Mao Zedong guida la rivoluzione culturale. Muore Che Guevara e in America i neri guidati da Martin Luther King lottano per il riconoscimento dei loro diritti civili e per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La ribellione si focalizza contro la guerra in Vietnam. John Lennon e Yoko Ono protestano stando a letto in quel bed-in evocativo dei sit-in entrato nella storia, mentre Carl Wilson, il chitarrista dei Beach Boys, è costretto a presentarsi davanti alla Corte federale di Los Angeles per rispondere all'accusa di diserzione. A preparare il terreno per il successo del Festival di Woodstock e per l'intera Summer of Love, con la quale si identifica l'apice dell'espansione del movimento hippie, è stato nel 67 lo Human Being, un raduno giovanile tenutosi a San Francisco, vera e propria culla delle controculture. Da qui i beatnik, eredi della Beat Generation di Kerouac, Ginsberg e gli altri, avevano dato il via a tantissime comunità che abbracciavano la rivoluzione sessuale, sperimentavano droghe per immergersi in stati di coscienza alternativi, ascoltavano il rock psichedelico e predicavano ideali di pace, amore e libertà. «Mettete dei fiori nei vostri cannoni», gridano colorati e con i pantaloni a zampa d'elefante i figli dei fiori. In Messico si chiamano Jipitecas e provocano la onda chicana. In Inghilterra, gruppi nomadi uniti nelle carovane di pace intraprendono lunghi pellegrinaggi estivi ai festival di musica libera a Stonehenge. In Nuova Zelanda, gli House Truckers vivono secondo il rispetto della natura, seguendo il culto dell'energia sostenibile. Tutti guardano alle filosofie orientali e inseguono una vita spirituale lontana dal consumismo e dalle convenzioni con cui i loro padri li hanno cresciuti. L'impatto che ha il movimento hippie sulla cultura è enorme, non solo nella moda, ma anche nella musica, nella letteratura, nel cinema. Ma oggi, a Destini Incrociati, vogliamo raccontarvi la storia del musical che più di qualsiasi altro libro o canzone rappresenta l'atmosfera dei Figli dei Fiori. Si tratta di Hair, e i nostri protagonisti sono due ragazzi che hanno creato questa indimenticabile follia. Si chiamano James Rado e Jerome Ragni. James Rado e Jerome Ragni. Signor Berger, sto perdendo la pazienza. Questa è una festa privata. Lei non era invitato e credo sia meglio che se ne vada. Ma lei non capisce. Io non devo capire niente. Ma lei deve capire qualcosa. Deve non capire quello che quest'uomo io dovrà non fare. Non lo voglio sapere, Berger. Ma invece dovrebbe saperlo. Lo sa cosa farà quest'uomo per non lei? Non mi interessa cosa farà quest'uomo. Beh, dovrebbe interessarti, amico, perché lui andrà a combattere per te, amico. Andrà nel Vietnam a combattere per te, per salvarti la vita. Non importa. Per salvare la tua pelle. O cosa farà lei? Voglio dovrebbe importare. 1932, Los Angeles, distretto di Venice. In una giornata di fine gennaio, ma dalla temperatura mite per la vicinanza con il mare, viene alla luce il piccolo James Alexander Radomski, che presto avrebbe cominciato a farsi chiamare semplicemente Rado. Fin da subito, dal suo grande sorriso stampato in faccia, si intuiscono in lui un'indole bonaria e un carattere socievole, tanto che tutti gli adulti e amici di famiglia si ritrovano spesso intorno a lui a guardarlo giocare pacifico con qualsiasi oggetto gli capiti tra le mani. Venice, che oggi è un luogo di residenza ambitissimo per tutti i californiani, ha una storia dall'andamento altalenante. Abbot Kinney, grande imprenditore divenuto milionario con l'edilizia, l'ha fondata nel 1905 con in mente il modello di una Venezia rinascimentale, incluso canali, gondole e gondolieri. Il suo sogno era farla diventare un importante centro di turismo e divertimento. E ce l'ha fatta, almeno fino agli anni 20, quando le famiglie più abbienti erano solite soggiornare nelle casette di legno affacciate sulla spiaggia. Poi è stato scoperto il petrolio, i canali hanno cominciato ad essere sempre più inquinati, sono aumentate le strade asfaltate e per finire uno spaventoso incendio ha distrutto completamente il molo e le sue installazioni. Comincia da qui il degrado del quartiere, che verrà recuperato solo a partire dagli anni 80, e infatti James non nasce certo in una casa da signori. I miei non erano ricchi, ma mi hanno cresciuto con grande dignità. In casa c'era tutto il necessario, nulla di più, nessuno sfizio. Però è così che ho imparato quali sono le cose che contavano davvero nella vita. I Radomski si spostano spesso in giro per l'America. Prima a Rochester, una città di 200.000 abitanti a sud del lago Ontario, stato di New York, e poi Washington DC, la capitale. James è curioso, continua a fare domande sulla storia del posto in cui si trova e ogni particolare che scopre trova subito spazio nella sua testa già così affollata di suggestioni. Riflessivo, posato, romantico, Rado, così lo chiamano tutti quasi fosse un nomignolo e non il suo cognome accorciato, per via della sua timidezza fa piuttosto fatica a integrarsi. Solitario più per scelta che per obbligo, ama scrivere canzoni fin da ragazzino. Torna dalla scuola che non tutti i suoi coetanei frequentano regolarmente e si appunta a poesie da trasformare in musica. Siamo negli anni 40 e l'America è entrata in guerra. In casa si ascoltano alla radio le notizie dal fronte, sperando che ogni volta non ci siano amici coinvolti. Rado, nonostante la giovane età, capisce la gravità della situazione e ne soffre moltissimo. Ascoltavo il notiziario ogni giorno, più volte al giorno. C'era silenzio assoluto quando si ascoltava cosa stava succedendo in Europa. Io avevo approfondito da solo quello che non mi diceva nessuno. Sfogliavo l'Atlante. Cercavo di capire perché stava succedendo tutto quello. I capelli sono l'unico vezzo di James Rado, che per il resto non si cura più di tanto del suo aspetto. Li porta sempre leggermente lunghi, fregandosene di chi lo scambia o finge apposta di scambiarlo per una ragazza. A scuola è bravo, ma è nel teatro che eccelle davvero. Già dal liceo approfondisce la storia dello spettacolo. E scrivere canzoni, che prima era solo un gioco da ragazzini solitari, adesso diventa una passione vera e propria, della quale James non può fare a meno. Non le fa leggere a nessuno, ma presto si sparge la voce, tanto che qualche compagno, convinto che il suo romanticismo possa far breccia nel cuore di qualcuna, comincia a chiedergli consigli sentimentali. Io non avevo altri fini, scrivevo poesie da mettere in musica perché mi piaceva. Tutto qua. Non lo facevo certo per conquistare le ragazze. Ma i miei compagni devono aver pensato questo, perché capitava sempre più spesso che mi chiedessero di scrivere qualcosa per la ragazza che gli piaceva. C'è stato qualcuno che ha anche proposto di pagarmi. Serrado non si presta alle piccole schermaglie amorose, prende invece molto sul serio gli spettacoli scolastici che gli insegnanti gli affidano senza pensarci due volte. E arrivato all'università, dove studia arte drammatica, firma ben due pièce che nel circuito ristretto hanno molto successo: Interlude e Interlude Second. Non si occupa soltanto dei testi, come farà in futuro, ma anche delle musiche, finché un giorno si palesa quello che è da sempre il suo peggiore incubo. 1950, Corea. A causa di tensioni irrisolte, la Corea del Nord invade la Corea del Sud, di dominio americano. Gli Stati Uniti, in modo totalmente inaspettato dal governo sovietico che domina il Nord, intervengono in una guerra tra fratelli che si rivelerà sanguinosissima, con lo scopo di non indebolire la loro presenza in Asia. James Rado viene arruolato e resta nell'esercito per 2 anni. Il suo rifiuto per la violenza cresce dopo le parole del generale Ridgway, che secondo lui cerca soltanto di giustificare l'inutilità di un massacro. Per me il problema è chiaro. Non si tratta di una città o di un villaggio coreano. Le questioni di territorio in questo caso hanno scarsa importanza. Si tratta di sapere se la civiltà occidentale che Dio ha permesso nascesse nei nostri amati paesi sarà in grado di sfidare e di sconfiggere il comunismo. Se il regno di coloro che uccidono i prigionieri, rendono schiavi i loro concittadini e calpestano la dignità umana, avrà il sopravvento sul regno di coloro cui sono sacri l'individuo e i suoi diritti. Se dobbiamo sopravvivere con la mano di Dio che ci guida, o se dobbiamo morire nella desolazione di un mondo senza Dio. Rado tollera malissimo la disciplina militare, così come le costrizioni dei superiori e l'obbligo di vedere costantemente il dolore negli occhi degli altri. Quando ritorna a Washington, decide di chiudere quel capitolo della sua vita nell'esercito e di fingere, per quanto è possibile, che non sia mai esistito. È arrivato il momento di volare a New York e di pensare soltanto al teatro. Ad attenderlo c'è un insegnante d'eccezione, Lee Strasberg. Nella storia della didattica teatrale, il metodo Strasberg si è rivelato uno dei più efficaci ed innovativi. Si tratta di una continuazione del sistema Stanislavski, il grande maestro russo degli inizi del Novecento, che per primo ha unito recitazione, creatività e psicologia. La costruzione di un personaggio segue regole apparentemente semplici, ma in grado di produrre grandi effetti. La credibilità è la massima dote e l'interprete non deve mai essere finto. Deve avere il controllo del suo corpo, delle sue emozioni, delle sue reazioni, mentre la personalità, i sentimenti e i pensieri del personaggio vanno ricercati dentro se stessi. L'attore deve annullarsi completamente nel personaggio fino ad assumerne l'identità più intima. Un gioco da ragazzi, pensa lo stesso Rado all'inizio, ma poi scopre che il cammino è fatto di lunghe prove e tanto sudore. Per fortuna, la fatica serve a qualcosa. Mentre continua anche a scrivere canzoni, il biondino dal carattere dolce e i tratti del viso spigolosi debutta a Broadway. È il 1963 e va in scena Marathon 33. Ero davvero emozionato. Prima di salire sul palco, ho sbirciato attraverso il fondale ed è stato lì che ho realizzato quello che stava succedendo. Quello era un pubblico pagante. Aveva scelto lo spettacolo e noi eravamo lì per loro. Non era più come all'università. Volevo dare il meglio di me, ma mi tremavano le gambe. Se Broadway rappresenta i grandi spettacoli con coreografie, scene sontuose ed effetti speciali, con la definizione off-Broadway si intendono tutti quei teatri di New York molto più piccoli, che accolgono dalle 100 alle 500 persone al massimo, dove si va per vedere produzioni decisamente più economiche. Gli attori sono bravi, ma sconosciuti, e per questo motivo vengono pagati molto meno. Si tratta in qualche modo di una sorta di Broadway versione underground, per certi versi anche più affascinante perché può permettersi le sperimentazioni. James Rado un giorno si presenta a un casting per prendere parte alla pièce Hang Down Your Head and Die al Mayfair Theatre. In fila ci sono moltissimi ragazzi che come lui sognano di essere presi, ma uno, Jerome Ragni, è diverso da tutti gli altri, estroverso, spaccone, perfino strafottente. Sembra che non gliene importi niente. In poche parole, l'opposto di Rado, sempre gentile e accomodante. A volte il confine tra persona e personaggio è impalpabile, come a dire Strasberg la sapeva davvero lunga. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1964 e a New York sta per scatenarsi un vero e proprio terremoto generazionale. James Rado e Jerome Ragni danno vita al musical Hair. James Rado ha poco più di 30 anni e fin da quando era ragazzino scrive canzoni. Nato a Venice, Los Angeles e cresciuto a Washington, dopo aver firmato alcuni spettacoli all'università, si è trasferito nella Grande Mela, dove ha studiato recitazione niente meno che con il grande maestro Lee Strasberg, teorico dell'omonimo metodo. In apparenza era tutto molto semplice, ma in realtà il metodo attiva dei meccanismi psicologici tali per cui da un momento all'altro ti ritrovi a piangere o a ridere a crepapelle. Sai che lo stai facendo, hai pieno controllo del tuo corpo, ma poi ci pensi e ti sorprendi di averlo fatto. È come trovarsi contemporaneamente in sé e fuori di sé. Al casting del Mayfair Theatre per la produzione off-Broadway Hang Down Your Head and Die, un inno anticapitalista in linea con i tempi, i soldi in ballo sono pochi, eppure i candidati moltissimi. Tutti hanno voglia di cimentarsi con uno spettacolo da portare in scena in quei teatrini di pochi posti, spesso nascosti all'interno dei palazzi, dove gli spettatori sono spesso veri intenditori. Mentre James è agitato e inganna l'attesa ripassando nervosamente la parte, Jerome Ragni fa lo spiritoso con la segretaria che smista gli aspiranti attori, ride in modo sguaiato, risponde con tono seccato a un ragazzo che gli chiede di abbassare la voce. Sicuro di sé ai limiti dell'arroganza, sembra avere il mondo ai suoi piedi. Rado, timido e riflessivo nei suoi confronti, prova immediatamente un'attrazione, repulsione che lo confonde. Il modo di fare di Jerome mi indisponeva, eppure sentivo che lui aveva qualcosa di speciale. Era diverso da chiunque. Presto saremmo diventati grandi amici, ma non immaginavo quello che avremmo fatto. Pochi giorni dopo il provino, su un foglio bianco volante appeso fuori dalla porta, sono scritti i risultati. James Rado, preso. Jerome Ragni, preso. I due, distinto, senza avere ancora praticamente scambiato una parola, si abbracciano. È l'inizio di una grande avventura. Settembre 1935. In quella che decine di anni dopo sarebbe diventata una data tristemente famosa, Jerome Ragni viene alla luce a Pittsburgh, Pennsylvania. La famiglia Ragni viene da un piccolo paesino dell'Abruzzo ed è arrivata in America alcuni anni prima in cerca di fortuna. Jerome da bambino si fa raccontare di quel posto lontano chiamato Italia e di come mamma e papà siano arrivati a New York sbarcando ad Ellis Island, il cui porto ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini statunitensi che all'arrivo dovevano esibire i documenti di viaggio con le informazioni sulla nave da cui erano scesi. Mi hanno raccontato che quelli del servizio immigrazione non si lasciavano sfuggire nulla, anche se controllavano in fretta ogni immigrato per non perdere tempo. Facevano andare quelli che consideravano buoni e mettevano col gesso una X sulla schiena di chi aveva bisogno di altri esami. Poi bollavano ancora con il gesso, una sigla per le donne incinta, una per i problemi mentali, eccetera, eccetera. Come molti connazionali partiti per non soffrire la fame, anche i Ragni sono poveri. Quando ancora stavano in Abruzzo, arrivavano voci di un'America a terra promessa, nella quale il lavoro non sarebbe mai mancato e ci sarebbe stata prosperità per tutti. Ma la verità spesso è molto più dura del sogno e riporta con i piedi per terra. La nuova vita è affascinante, ma alle difficoltà di integrazione di chi non parla una parola d'inglese si somma la nostalgia per gli amici e i parenti che non si rivedranno mai più. Jerome però è nato a Pittsburgh e si sente americano. Sebbene in casa si parli ancora italiano, a scuola ha imparato l'inglese ed è quello che, quando serve, traduce per gli altri. Gli altri sono in tanti. Mamma, papà e 9 fratelli di età diverse, dal più piccolo appena nato ai maggiori che già lavorano per contribuire alle spese. Lui, Jerome, vuole studiare. E siccome è molto bravo, si sceglie di dare a lui la possibilità di frequentare l'università. Per pagarmi gli studi e non pesare del tutto sulle spalle della mia famiglia, che aveva già abbastanza problemi, ho fatto di tutto, dal distribuire i giornali al commesso in drogheria. Mi facevo andare bene qualsiasi cosa. Non ero uno con la puzza sotto il naso. E così, finite le superiori, mi sono iscritto all'Università di Georgetown. L'Università di Georgetown è stata fondata nel 1789 nei dintorni di Washington ed è la più antica università cattolica di tutti gli Stati Uniti. Gli edifici principali sono situati su una sponda del fiume Potomac ed è un vero spettacolo guardare dall'altro lato del fiume d'autunno i colori delle foglie del suo parco che vanno dal giallo al marrone. Jerome Ragni è un ragazzo a cui la vita non ha regalato niente e più di chiunque altro è determinato a laurearsi con il massimo dei voti. Gli interessano le materie umanistiche, letteratura, storia e soprattutto teatro. Tra un libro e l'altro, Jerome trova il tempo per scrivere poesie e canzoni e per frequentare una ragazza, Stephanie, che più tardi sarebbe diventata sua moglie, nonché madre di suo figlio Eric. È brillante, intraprendente, sicuro di sé e sembra avere il mondo ai suoi piedi. Siccome dello spettacolo non gli interessa soltanto l'aspetto teorico ma anche quello pratico, si iscrive a un corso di recitazione con Philip Barton, diventandone in poco tempo l'allievo prediletto. Ero ancora confuso su quello che sarebbe stata la mia vita. Per il momento mi limitavo a sperimentare tutto ciò che stimolava la mia immaginazione e la mia curiosità. Il debutto da attore di Jerome Ragni avviene a Washington nel 1954, quando interpreta Padre Carr in Shadow and Substance. La pièce, divisa in 4 atti, è stata scritta da Paul Vincent Carroll nel 1937 e l'anno dopo ha vinto numerosi premi, tra cui quello della critica teatrale a New York. La commedia ha un cast di 6 uomini e 4 donne e tocca il complesso tema della Chiesa Cattolica in Irlanda. Per Ragni è un discreto successo e da questo momento non si ferma mai, imbroccando un lavoro dopo l'altro. In giro per l'America in tournée conosce registi con i quali entra in contatto e che spesso lo chiamano a recitare per loro. Prende parte a War, al South Village Theatre di New York, e si aggiudica il Barter Theatre Award come migliore attore. Siamo nel 1963 e da 3 anni è in corso la guerra in Vietnam. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto e la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, signore! Full Metal Jacket esce nel 1987, anni dopo che la guerra è finita. Ma l'opposizione inizia subito, all'inizio degli anni 60, e coinvolge una larghissima fascia dell'opinione pubblica. La crescente copertura televisiva informa come mai era successo prima e nelle università gli studenti sono in rivolta. Migliaia di giovani, pur di non essere arruolati, scappano in Europa o in Canada. Altri, per evitare la chiamata, si sposano o trovano medici accondiscendenti che gli rilasciano certificati falsi. Molti americani sono contrari alla guerra per questioni morali, perché la vedono come un conflitto distruttivo contro l'indipendenza vietnamita o perché non capiscono il senso di un intervento in una guerra civile straniera. Qualcuno protesta per la mancanza di obiettivi chiari e perché trova inutile addentrarsi in una battaglia che non porterà mai alla vittoria. Fatto sta che l'ondata pacifista cresce esponenzialmente e a guidarla sono gli hippie, con i loro slogan antimilitaristi come «Fate l'amore, non fate la guerra». Jerome Ragni è in prima fila con il suo amico James Rado, incontrato quando entrambi partecipano alla produzione «Hang Down Your Head and Die». Insieme agli altri marciano, urlano, se la prendono con la polizia. Soprattutto stanno per scrivere il musical dal fascino eterno. Hair, fratellanza, natura, pace. Benvenuti nell'era dell'acquario. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1964 a New York e sullo sfondo delle proteste antimilitariste contro la guerra del Vietnam, due giovani attori stanno per scrivere insieme un musical leggendario, Hair. Si chiamano James Rado e Jerome Ragni, hanno studiato entrambi teatro, scrivono canzoni e dopo varie esperienze di teatro sperimentale, ora si trovano a recitare tutti e due nella pièce Hang Down Your Head and Die, una produzione off-Broadway. All'audizione, Rado era rimasto colpito dalla sicurezza di Ragni, al limite dell'arroganza. Lui è l'opposto, è romantico e riflessivo. Eppure i due diventano in poco tempo amici fraterni. È un momento di grande fervore culturale e James e Jerome frequentano gli hippie dell'East Village. Io e Jerome conoscevamo quei gruppi di ragazzi dell'East Village che si lasciavano andare alla vita e che sfuggivano alla leva. C'erano anche un sacco di articoli sui giornali e sui ragazzi cacciati dalla scuola per essersi lasciati crescere troppo i capelli, che anche noi portavamo lunghi. Bazzicavamo i loro giri e andavamo ai loro be-in. C'era molto entusiasmo nelle strade, nei parchi, nelle zone hippie. E noi pensammo che se avessimo potuto trasmettere questa eccitazione al palco, sarebbe stato meraviglioso. La prima bozza di Hair nasce così, dalla suggestione di alcuni personaggi incontrati per strada in una combinazione tra la realtà e l'immaginazione di Rado e Ragni. I due cominciano a scrivere il musical nel 65 e per la costruzione dei personaggi principali, Claude e Berger, tracciano un ritratto di loro stessi. Il Claude di Rado è romantico e pensoso, mentre il Berger di Ragni è tipicamente estroverso e spaccone. Il titolo non è legato soltanto ai capelli dei protagonisti, un simbolo di ribellione per un'intera generazione più che un vezzo di pochi, ma anche a un segno del destino in cui Rado e Ragni si imbattono un giorno mentre passeggiano per una mostra al Whitney Museum. La loro attenzione si ferma su un quadro che consiste in un pettine e poche ciocche di capelli su una tela vuota. Al lato, l'etichetta riporta il nome che ha scelto l'artista per la sua opera, Hair. Eravamo grandi amici, era una relazione assai appassionata che noi canalizzammo nella creatività, nella scrittura, nella creazione di questa pièce. Drammatizzammo il nostro rapporto. La relazione tra Rado e Ragni è strettissima, ambigua, volubile e indispensabile. Loro la definiscono easy to be hard. James Rado e Jerome Ragni lavorano per settimane ad Hair, staccando solo per le manifestazioni per i diritti civili e gli incontri con gli altri hippie dell'East Side. Quando si accorgono di avere messo insieme un materiale abbastanza definito, portano il lavoro al produttore Eric Blau, il quale, attraverso il comune amico Nat Shapiro, mette in contatto gli autori con il compositore canadese Galt McDermott. McDermott ha un modo di vivere lontanissimo dal loro stile bohemien. È sposato, ha una bella casa borghese a Staten Island, quattro figli, i capelli corti. Il suo talento parla per lui. Ha già vinto un Grammy Award nel 1961 per la composizione African Waltz, registrata dal sassofonista Cannonball Adderley. E così incomincia a perfezionare il materiale che i due giovani attori gli consegnano, mettendo i testi in musica. Nei primi 20 giorni completa i brani I Got Life, I No Go, Where Do I Go ed Hair. Lavoravamo indipendentemente. Loro scrivevano sempre insieme, poi mi consegnavano il materiale. Nessuno avrebbe potuto entrare davvero nella loro coppia. Erano come una cosa sola, diversissimi, litigavano spesso, ma si capivano al volo. Hair debutta nell'ottobre del 1967 in un teatrino off-Broadway, il Public Theater fondato da Joseph Pepp. Dopo una replica in una discoteca della Midtown di Manhattan, sfonda sulle scene di Broadway al Biltmore Theater il 29 aprile del 1968. A questo show seguono ben 1750 performance americane e 1997 repliche della produzione londinese. Il successo è travolgente. Molte delle canzoni finiscono nella top 40, si moltiplicano le versioni in giro per il mondo e Miloš Forman nel 79 ne fa una riduzione cinematografica. Hair diventa il prodotto più importante della controcultura hippie, scuote le coscienze, contribuisce a diffondere l'opposizione pacifista alla guerra del Vietnam, cambia la storia del musical introducendo l'uso del rock. Provocatorio e controverso, con le sue scene sconvolge i benpensanti. La bandiera americana non viene presa sul serio. Capita che il cast, multietnico, sia nudo in scena. Le droghe e la sessualità sono vissute in modo libertino e il pubblico alla fine è invitato a partecipare in scena a un be-in. Dopo Hair, la vita di James Rado e Jerome Ragni non è più la stessa. Provano a lavorare separati, ma si ritrovano sempre in coppia quando credono davvero in qualcosa. Ragni muore di cancro a 55 anni, poco dopo che lui e Rado avevano deciso di scrivere un sequel. E mentre Rado oggi è ancora in piazza a cantare con i ragazzi di Occupy Wall Street, il loro incrocio di destini ci ha lasciato l'affresco di un'epoca in cui l'utopia sembrava possibile. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not polite.